24 mattino. Le 8:18 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, 349-238-6666 per i vostri messaggi. E allora è il momento di parlare di economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani, ben ritrovata Deborah. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi parliamo di energia, questo macro tema, ma in particolare di che cosa? Di che cosa? Allora intanto ti dico che abbiamo indetto le giornate dei bonus, perché tra oggi e domani, tra Soldi e dintorni e Salvadanaio, parleremo dei vari bonus a cui possono accedere le famiglie italiane, bonus fiscali, bonus legati anche all'energia, perché un anno fa, quando la crisi finanziaria non aveva ancora prodotto tutti gli effetti terribili che abbiamo visto quest'anno, c'era un altro problema che sembrava incombere sulle famiglie italiane: il prezzo del petrolio stava incominciando la sua corsa, quella corsa che lo avrebbe portato in pochi mesi a picchi storici, ricordiamo il record di luglio a $147 al barile, e le sue ripercussioni su bollette di luce e gas erano tutt'altro che trascurabili. Ricordiamo, un anno fa i prezzi appunto di luce e gas erano aumentati del 3,8 e del 3,4%, poi c'è stata l'escalation continua delle tariffe per tutto l'anno. Adesso a gennaio è iniziato invece un trimestre che vede dei ribassi. Allora, un anno fa che cosa era successo? La finanziaria aveva introdotto il bonus sociale per l'energia elettrica, proprio per andare incontro alle famiglie già alle prese con un carrello della spesa sempre più pesante, tema di cui abbiamo parlato ieri. Il bonus però è operativo solo da gennaio di quest'anno, sembra un controsenso perché le bollette appunto stanno scendendo in seguito alla discesa del greggio, però grazie al meccanismo della retroattività sarà possibile fruirne appunto per le famiglie che ne hanno diritto. Come si fa a fruirne? Stamattina lo spieghiamo con il dottor Egidio Fedele Dell'Oste, direttore tariffe dell'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas. Dottor Dell'Oste, buongiorno e ben alzato. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, qual è la potenziale platea di questo bonus? Noi stimiamo che potenzialmente potrebbero averne diritto almeno 5 milioni di italiani, questo come tetto massimo. Praticamente dovrebbero averne diritto tutti quei nuclei familiari che hanno un indicatore di situazione economica equivalente fino a 7.500 euro l'anno. Il cosiddetto ISEE. ISEE. Quindi 7.500 euro, questo è il tetto di reddito al di sotto del quale appunto si può calcolare se si ha nel diritto di avere diritto al bonus o meno. In che cosa consiste esattamente questo bonus, dottor Dell'Oste? Perché in realtà è proprio uno sconto sulla bolletta. Quanto ammonta? Ma diciamo che più che uno sconto sulla bolletta è una tariffa negativa che viene calcolata sulla bolletta. E per il disagio economico è diviso a seconda della numerosità del nucleo familiare. Per il 2009 uno o due componenti si vedranno riconosciuti 58 euro l'anno, 3-4 componenti 75 e oltre 4 componenti 130 euro l'anno. Oltre, diciamo che al disagio economico, quello individuato dall'ISEE 7005, ci sono poi gli ammalati, quelli che hanno necessità di utilizzare a casa delle macchine che consumano energia elettrica. Energivore, esatto. Ecco, quindi questi sono sicuramente aspetti importanti, ma un aspetto molto importante è il fatto che questo bonus può essere retroattivo anche per tutto l'anno che si è appena chiuso, dottor Dell'Oste. Sì. Esatto, tutti quelli che faranno domanda entro il 31 marzo di quest'anno avranno diritto al riconoscimento anche per tutto il 2008, e il riconoscimento per tutto il 2008 è un po' più alto, sono rispettivamente 60, 78 e 135 euro, proprio perché il bonus viene aggiornato ogni anno in funzione, entro dicembre di ogni anno, in funzione della spesa presunta dell'anno successivo. Siccome siamo in un anno dove si presume di pagare un po' meno che nel 2008, il bonus del 2009 è leggermente più basso di quello del 2008. Ecco, la richiesta per poter accedere a questo bonus è una richiesta che si può molto semplicemente fare al comune di residenza entro il 31 marzo prossimo. diciamo, entro al comune di residenza oppure a una istituzione individuata dal comune di residenza. So che alcuni comuni si sono associati per individuare un istituto di riferimento. Esatto, perché molti... poi tra l'altro molto dibattito c'è stato proprio intorno a questo aspetto, che molti comuni non erano pronti anche all'adeguamento, esatto, no, di questo servizio, certo, chiamiamolo così. E non lo sono ancora tutti. Mm. E molti stanno delegando ai CAF l'operazione di ricevimento delle domande, ma non è detto che debbano essere presentate entro il 31 marzo, possono essere presentate anche dopo, possono essere presentate ogni giorno, solamente che non avranno diritto alla retroattività. Una volta presentata la domanda, dottor Dell'Oste, da quando concretamente le famiglie che ne hanno diritto vedranno il beneficio in bolletta? Il discorso è un po', non è così semplice, nel senso che dipende da come operano i comuni. I comuni devono trasferire l'informazione ai distributori di energia elettrica, che sono quelli che materialmente applicheranno lo sconto sulle bollette. Da quando l'informazione è trasferita ai comuni, ai distributori, da quando i comuni trasferiranno l'informazione ai distributori, il distributore a tempo da 30 a 60 giorni per riconoscere in bolletta lo sconto. Ecco, queste sono dunque le modalità operative. E tra l'altro mi sembra di aver capito, anche questo è un aspetto importante, perché come anticipavo anche prima con il mio collega, con Alessandro Milan, noi tra oggi e domani anche nell'altro contenitore dedicato alla finanza personale Salvadanaio continueremo ad esplorare il mondo dei bonus e fiscali anche di altro genere. Ci sono molti in circolazione in questo momento a cui hanno diritto le famiglie italiane di poter accedere. Mi pare che questo sia cumulabile anche con le altre forme di sostegno che sono state varate, per esempio, dottor Dell'Oste, dal decreto anticrisi. Sì, ma diciamo non solo dal decreto anticrisi, è previsto anche che ci sia, prima di tutto c'è l'accumulabilità tra il bonus elettrico, diciamo, sociale e il bonus elettrico fisico. Poi è prevista la cumulabilità, e ci stiamo ragionando assieme al Ministero dell'Economia, la cumulabilità di questo bonus con la carta acquisti. Il decreto anticrisi ha introdotto un'estensione del bonus, un'estensione alle famiglie con 4 figli a carico, per le quali il limite ISEE è stato elevato a 20.000, e ha previsto l'estensione dello stesso meccanismo anche per le agevolazioni gas, cioè ha previsto sostanzialmente un bonus gas assolutamente cumulabile con quello elettrico. Dottor Dell'Oste, per tutte le informazioni che ci servono per poter accedere a questo beneficio, troviamo tutte queste informazioni sul sito dell'Autorità dell'Energia del Gas? Trovate queste informazioni sul sito dell'autorità e esiste anche un numero verde, i cui riferimenti li trovate sempre sul sito dell'autorità, che risponde a tutte le domande. E poi in teoria, insomma, andando in comune qualcosa dovremmo pur riuscire a sapere. Ci sono anche i comuni, è stato istituito anche un sito presso l'ANCI, l'Associazione dei Comuni, è un sito più dedicato ai comuni che ai cittadini, comunque ci sono tutte le informazioni anche sul sito dell'ANCI. Io ringrazio molto per essere stato con noi Egidio Fedele Dell'Oste, direttore tariffe dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, e le auguro buona giornata, presto. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Alessandro, io ho terminato. Eccoci qui, però non ci dici cosa fai alle 12. Continuo a parlare di bonus, parlo di questo bonus straordinario, il bonus sociale una tantum per le famiglie anche in questo caso a basso reddito. Ieri l'Agenzia delle Entrate ha diramato le comunicazioni necessarie per poter accedere anche in questo caso a questo bonus. In realtà le informazioni c'erano già tutte, ci sono state ulteriori precisazioni, quindi oggi torneremo anche su questo alle 12. Le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, uno sguardo alle ultime notizie. Prima notte per Eluana Englaron alla clinica La Quiete di Udine, dove nei prossimi giorni si applicherà il protocollo del distacco del sondino. Numerose le reazioni politiche, il Vaticano denuncia è un omicidio, mentre la famiglia di Eluana chiede silenzio. È stata approvata alla Camera la riforma della legge elettorale per le europee. Il testo che passa al Senato introduce una soglia di sbarramento per le liste al 4%, sono mantenute invece le preferenze. Via libera da oggi per altri 6 mesi al dispiegamento dei militari nelle città, con alcuni piccoli cambiamenti, spiega il ministro della Difesa La Russa. A Milano i soldati aumenteranno da 369 a 434, alla Campania saranno assegnati 429 uomini rispetto ai 179 iniziali. Da Tokyo, notizia economica, la Panasonic ha annunciato questa mattina il taglio di 15.000 posti di lavoro a livello complessivo e la chiusura di 27 impianti per contrastare gli effetti della crisi in corso. Infine il calcio, stasera c'è la Coppa Italia, a Torino, Juventus e Napoli si giocano i quarti di finale, fischio d'inizio alle 20.45. Ed è come di consueto arrivato il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Nel nostro paese continuano a nascere più imprese di quelle che muoiono. Il saldo positivo del 2008 è stato di 36.000 aziende in più, il più basso però degli ultimi 6 anni. Diminuiscono nell'industria, nell'agricoltura, continuano a crescere nei servizi. Vanno male quelle individuali, un po' meglio quelle di capitali. Tra le aree migliori c'è il nord-ovest, c'è la Lombardia, un po' in difficoltà il nord-est. Queste statistiche possono sembrare aride e un po', per la verità, lo sono, ma danno l'idea di un tessuto imprenditoriale vivace nonostante la crisi. Noi abbiamo più imprese degli altri paesi, più della Francia, più dell'Inghilterra. Purtroppo sono piccole, questo è il problema. Ma 6 piccoli imprenditori su 10 sono stati dipendenti prima. Una nuova impresa su 3 è al femminile, 1 su 3 è di immigrati. Questi dati ancora positivi potrebbero indurci ad essere ottimisti, ma dobbiamo constatare che molti piccoli imprenditori, in particolare artigiani, sono vasi di coccio davanti al credito bancario, che è diventato più difficile e più costoso. Non possono fare la voce grossa, hanno pochi dipendenti e spariscono di fronte ai casi più rilevanti. Ma se sono così utili, come dimostrano questi dati, perché vengono sempre per ultimi? Buona giornata. Grazie a Ferruccio De Bortoli e ovviamente a domattina. 349-238-6666 per i vostri messaggi alle 8.34 minuti. 1998, la legge turco-napolitano sull'immigrazione introduce questo principio che uno straniero, anche se irregolare, può accedere alle strutture sanitarie italiane e questo non comporta alcun tipo di segnalazione alle autorità, salvo i casi obbligatori anche per gli italiani. Tradotto, sei un immigrato, sei irregolare, puoi andare a farti curare in un ospedale, in un pronto soccorso senza problemi. Oggi si discute al Senato un emendamento che sta facendo molte polemiche, proposto da alcuni esponenti della Lega, che vuole sostanzialmente togliere questo obbligo di non segnalazione. Tradotto, se passa questo emendamento, ora il medico, dopo aver curato ovviamente l'immigrato, potrà, ripeto, potrà, non sarà obbligato, ma a sua discrezione potrà segnalarlo laddove pensa che possa essere un irregolare alle autorità. Voglio salutare il senatore Fabio Rizzi della Lega, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Senatore e medico, ed è il relatore di questo emendamento. Avrà visto che gran parte del mondo medico si è sollevato, parla di delazione, parla di spie, siamo adibiti a curare, mica a segnalare all'autorità un potenziale irregolare. Perché volete togliere questo obbligo? Sì, beh, sicuramente ho visto tutta la polemica sollevata in ambiente prevalentemente medico, ma non solo, in altre parti della società civile, soprattutto quella cattolica. Io credo che si debba fare un pochino di chiarezza sul significato di questo emendamento. Noi come Lega Nord riteniamo che sia un atto dovuto l'approvazione di un emendamento di questo genere nel momento in cui passa il concetto della clandestinità come reato. Automaticamente, venendo riconosciuto il reato di clandestinità, credo che il medico, ma come qualsiasi individuo che venga a conoscenza di un reato, sia tenuto dal punto di vista strettamente civico a segnalarlo all'autorità giudiziaria. Quindi se le viene un immigrato irregolare al pronto soccorso, visto che lei ancora anche esercita, lei da oggi, o se passasse l'emendamento, non avrebbe problemi a denunciarlo laddove pensa che sia irregolare? Assolutamente nessunissimo tipo di problema, anche perché questo non va minimamente in contrasto con quella che è la funzione, la vocazione stessa del medico, che non è certo quello di ledere l'individuo ma di curarlo, perché non dimentichiamoci che prima di tutto il clandestino è un essere umano e ha diritto ad essere assistito, ad essere curato nel migliore dei modi, come normalmente avviene nei pronti soccorsi di tutti gli ospedali italiani. Diversamente però, usciamo un attimino dalla veste di medico, entriamo in quella di cittadino, dopo averlo curato, messo in sicurezza, ricoverato se del caso che ha bisogno che le cure possano proseguire, lo segnalo. Ovviamente ha commesso un reato, né più né meno che se capita in pronto soccorso l'ha coltellato piuttosto che l'ho sparato il trafficante di droga, e il mio senso civico mi impone, mi imporrebbe, dovrebbe impormi di segnalarlo all'autorità giudiziaria, ma non obbliga questo. No, non lo obbliga, è una discrezione. Concede questa alla coscienza del medico, alla coscienza del medico la decisione. Allora, senatore, visto che si immagina ci sia anche tanta bagarre politica su questo, mi lasci salutare anche Rolando Magnano, che è responsabile dei progetti italiani di Medici Senza Frontiere. Buongiorno Magnano. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Medici Senza Frontiere, ma non solo, con altre associazioni, ha promosso anche una fiaccolata un paio di giorni fa davanti al Parlamento contro questo emendamento, a dire ma non bisogna essere delatori, e poi c'è il rischio che l'immigrato irregolare, laddove tema una denuncia, non vada a curarsi, e sappiamo questo cosa vuol dire, creare delle cure parallele che non sono mediche, non tutelano neanche la salute. Perché siete contrari? Prima di tutto vorrei fare un chiarimento a quello che diceva il senatore prima. Oggi la legge prevede che laddove il medico si trovi di fronte a appunto un reato penale come un accoltellamento, sì, o d'altro, già oggi il medico ha l'obbligo di referto. Il senatore giustamente fa riferimento, cioè nel momento in cui si introduce il principio che il reato di immigrazione, che l'immigrazione clandestina sia un reato, debba essere segnalato. Secondo noi questo va a ledere, però se con l'introduzione di questo emendamento e per la segnalazione degli immigrati irregolari si va a ledere un principio superiore sancito anche dalla Costituzione italiana, che riconosce il diritto alla salute come un diritto fondamentale della persona, non usa nemmeno il termine. Il senatore però ci dice che questo è garantito, nel senso che viene curata la persona, non è che viene, non è che arriva e viene subito denunciata, prima viene curata come. No, in questo ha assolutamente ragione. Noi riteniamo che nel momento in cui si possa prevedere la segnalazione appunto dell'immigrato irregolare, appare ovvio che l'immigrato irregolare non si dichiarerebbe più presso un presidio sanitario se è consapevole del rischio di poter essere segnalato, si troverebbe come di fronte a una sorta di roulette russa: devo andare a pronto soccorso, forse potrò essere segnalato, forse no. Poi tra parentesi potrebbe essere segnalato non solo dai medici ma anche dagli infermieri e da tutti gli altri operatori. E qui c'è il rischio, voi dite che nasca un circuito sotterraneo, clandestino di cure, insomma, che poi sfuggono al controllo, anche al controllo. Sicuramente quindi il clima che si vorrebbe a creare di fatto che ostacolerebbe l'accesso alle strutture sanitarie. Queste le conseguenze di questo possono essere molteplici. Prima di tutto possiamo dire che molto probabilmente un immigrato irregolare con delle patologie rilievi non si rivolgerebbe più alla struttura sanitaria, ma vi si rivolgerebbe solo laddove la patologia si acutizzasse o si cronicizzasse. Sì, di fronte a questa accusa, che è un'accusa ben specifica, senatore Rizzi, che replica, lei che è medico appunto, cioè è un immigrato che sa di essere irregolare, quindi si trova magari con una malattia, magari importante, ma che lui sottovaluta e dice no, ma io non ci vado al pronto soccorso perché sennò quelli mi denunciano e mi tengo la malattia con tutti i rischi che ne conseguono di salute pubblica. Questo in ultima istanza potrebbe anche essere un rischio concreto che però mi sento assolutamente di escludere, perché ogni individuo di fronte alla malattia, di fronte al repentaglio della propria salute, lo mette in cima alla lista dei propri interessi e non va a pensare all'eventuale denuncia. Del resto però vorrei anche dire che credo che sia giusto e doveroso che ognuno si assumi le responsabilità delle proprie azioni. Nessuno lo ha obbligato a scendere nel ruolo di clandestinità e quindi nel momento in cui sceglie di commettere un reato, quello di clandestinità, se ne assume tutte le conseguenze. Senta, il senatore, resto del mondo è allineato con noi. Mi faccia fare una provocazione, no? E se io vengo al pronto soccorso, perché non cercare di capire se due giorni fa ho rapinato una banca e quindi chiedermi la fedina penale? Voglio dire, allargando questo principio, cioè, che dobbiamo fare? Questo voglio dire, noi siamo medici, non siamo ispettori di polizia. E vabbè, ma lo stesso principio vale per un immigrato. L'obbligo morale ci corre solo di fronte all'evidenza di un reato nel corso della nostra professione. Ripeto l'esempio eclatante, perché è comprensibile a tutti: quello che arriva con un coltello nella pancia è verosimile che sia stato coinvolto in una rissa e che ci sia stato un reato. In questo caso però c'è già la denuncia obbligatoria, cioè anche se anch'io arrivo con una ferita da taglio c'è... Assolutamente sì, in effetti, voglio dire, è un'analogia nel rispetto anche dei cittadini italiani, che sanno in qualsiasi momento, nel momento in cui commettono un reato e vanno in pronto soccorso, di poter essere denunciati. È discriminante il fatto che invece proprio i clandestini vengano ulteriormente protetti dalla Turco Napolitano, che ci impedisce di fare la segnalazione. Noi chiediamo solo che venga tolto questo impedimento e lasciare alla coscienza del medico la libertà di scegliere se seguire pedissequamente un'etica medica o comportarsi secondo un'etica da cittadino o da senso civico. Senatore, lei ha visto però che, insomma, io ho detto gran parte del mondo medico, ma io non ho ancora sentito un medico, lei vabbè è medico, ma non so se prevale il politico o il medico in questo momento nel suo ruolo, non ho ancora sentito un'associazione medica dire è giusto, bisogna farlo, cioè ho sentito solo associazioni mediche trasversali, non solo quelle cattoliche, anche il presidente dell'ordine dei medici a dire una follia, insomma è una delazione, non il medico, il giuramento di Ippocrate, non deve fare la spia. Le posso rispondere con una battuta? Sì, perché certo. C'è stata anche una grossissima polemica da parte del presidente dell'ordine dei medici della mia provincia. Se si solleva questo vespaio in maniera molto provocatoria, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Non dimentichiamoci che 20 anni fa la Lega Nord, quando parlava di federalismo, venivamo presi per razzismo. Allora c'è un pizzico di provocazione, lei dice, anche in questo emendamento. Beh, possiamo leggerla sicuramente così. Del resto la storia ci dimostra che abbiamo sempre in alcuni casi precorso i tempi. Potrebbe essere anche quest'altro caso. Va bene, in ogni caso lei denuncia senza problemi se passa l'emendamento, ma si prevedono barricate. I numeri ci sono, bisognerà stare attenti, insomma, i numeri della maggioranza, bisognerà vedere, insomma, però perché è già stato ritirato in passato, riproposto. Lei non avrebbe problemi di coscienza da medico a denunciare domani con questo emendamento un potenziale immigrato clandestino? E poi faccio una segnalazione. Non vado a ledere nessunissimo diritto dell'uomo nei confronti della salute. Perfetto. La ringrazio, senatore Fabio Rizzi della Lega Nord, che è il relatore di questo emendamento che fa discutere. Oggi farà discutere, se arriva oggi, forse in serata, forse domattina, ma insomma il momento è quello in cui si discuterà, tra o oggi o al più tardi domattina, questo emendamento al Senato. Ne daremo conto ovviamente nel corso di GR24. Grazie anche a Rolando Magnano, responsabile dei progetti italiani di Medici Senza Frontiere. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Allora, se vi capita di passare dalle parti di Livorno Ferraris in provincia di Vercelli, sappiate che questo comune, per una delibera di giunta approvata, si è autoproclamato comune deautoveloxizzato. Sindaco, buongiorno. Sindaco Renzo Masoero. Buongiorno. È così, insomma, è anche uno scioglilingue quasi dirlo. Cioè, non volete, non avete l'autovelox voi? Esattamente. E perché? Uno scioglilingua, ma lo riteniamo uno strumento iniquo, e noi cerchiamo di fare la prevenzione alla velocità e al regolamento del codice della strada con altri mezzi. Per esempio? Per esempio con i dossi, antivelocità messi all'interno del paese, con i segnali luminosi, e anche con la prevenzione attraverso i vigili urbani presso le nostre scuole elementari e medie, proprio per attenerci alle regole del codice della strada. Ma l'autovelox, insomma, è il modo più veloce per fare cassa per i comuni. Lei è pazzo, cos'è? Uno spot elettorale, cosa ha fatto? Sicuramente una delle decisioni più popolari che possa prendere un sindaco. Ma credo di sì, in realtà io sono già al quarto anno e mezzo oramai che faccio il sindaco, non l'ho mai adottato, adesso lo abbiamo istituzionalizzato e intendo, se sarò ovviamente riconfermato, mantenere questa posizione perché lo ritengo iniquo, ma recupereremo i soldi persi in un modo, credo che anche questo i cittadini apprezzeranno, cioè aumentando gli accertamenti sull'ICE e sulle tasse comunali, quindi consentendo il rispetto del pagamento delle tasse a tutti i cittadini in misura ancora maggiore. Comunque l'autovelox non le piace, dice, non mi piace. Leggevo anche una sua dichiarazione, dice rovina il rapporto tra le istituzioni e il cittadino, cioè, incrina il rapporto. Io credo che sia una delle cose che i cittadini meno sopportano, perché spesso sono posizionati in posti strategici. Con questo non voglio dire che bisogna andare forte o che non, in certi punti forse non vadano messi. Sul nostro territorio questi punti io non li rilevo e quindi non ci saranno. Io voglio salutare, resti con noi, sindaco Piero Stellino, editorialista del Corriere della Sera, già direttore, buongiorno direttore. Buongiorno. Noi ricordiamo, insomma, lei circa un anno e mezzo fa ha fatto una furibonda polemica in punta di penna, insomma, contro la voglia, il costume di molti comuni e istituzioni di fare cassa, insomma, sulle spalle dei cittadini o nel portafoglio dei cittadini, no? Sulla questione anche dell'utilizzo della macchina, l'autovelox. Come la vede questo comune autovelox-izzato? Beh, la vedo una decisione di buon senso tipicamente piemontese. Cioè, i piemontesi sono molto pratici, sono molto pragmatici, non sono ideologici e quindi non trasformano una sicurezza stradale in una sorta di parafiscalità, perché questo è. Cioè, sulle autostrade si vedono dei cartelli di riduzione della velocità che all'improvviso piombano addosso all'automobilista e non si capisce perché. Cioè, uno arriva a 130 km all'ora, poi ad un certo punto di colpo la velocità scende a 100. Cioè, a questo punto o uno frena e quello dietro lo tampona, oppure non frena e finisce dentro l'autovelox e deve pagare la multa. Questo è un modo truffaldino di fare i soldi. Ecco, il sindaco di Livorno-Ferrari sa, evita di essere un truffatore ai danni degli automobili. Avrà letto la polemica recente sui semafori, che per carità c'è un'inchiesta in corso. Un paese dove si truccano i semafori per fare soldi per i comuni è un paese truffaldino, cioè è un paese dove tutto è proibito e quindi il cittadino non può fare nulla, mentre nei paesi liberi tutto è permesso tranne ciò che è espressamente proibito. Questo però è un tema anche, se vuole, filosofico di concezione dello Stato, sul quale lei spesso si esprime. Voglio dire, c'è chi dice no, l'unico modo, l'unica cosa che il guidatore italiano capisce, come il fumatore, quando ieri avevamo Sirchia, quando gli ha tolto le sigarette di colpo nei mezzi pubblici, è la severità della legge, quindi più controlli, sempre di più autovelox, più vigili, più controllo stringente, questo è l'unico. Sarebbe ora che lo Stato italiano la smettesse di trattarci come dei bambini che non sappiamo autogestirci. Cioè, lo Stato italiano interviene troppo nella privatezza del cittadino e quindi deve smettere di farlo. Cioè, noi vediamo che ci sono dei ragazzi che escono alle 5 del mattino da una balera, ubriachi, impasticcati e che si uccidono. Che cosa succede il giorno dopo? Una classe politica demagogica abbassa il tasso di alcol fino a un bicchiere di vino e il padre di famiglia che fa la gita con la famiglia e beve un bicchiere di vino rischia di doversi pagare una multa oppure addirittura perdere dei punti sulla patente, perché la classe politica demagogica ha stabilito che bisogna punire anche un bicchiere di vino. Ma perché non fanno i controlli lungo le strade ed evitano che questi ragazzi si ammazzino magari in sette sulla stessa automobile? Il tema è annoso ed effettivamente la domanda che puntualmente si ripropone a ogni incidente e poi fino al successivo. Su questo ha ragione. Io, Stellino, la ringrazio, così come ringrazio Lorenzo Masuero, sindaco di Livorno Ferrari, Vercelli, anche presidente della provincia di Vercelli. C'è un ascoltatore che dice: fatemi sapere qual è sto comune, mettiamo insieme i consumatori e facciamo tutti una campagna per fare come questo sindaco, per carità, insomma. Però questo è il dato di fatto che abbiamo registrato oggi. Ci fermiamo qui ringraziando tutti, siamo proprio in chiusura. Ricordo, tra poco Giuliano Ferrara torna sul tema Eluana Englaro. 800 24 00 24 per intervenire. A domattina.